Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Berlino definisce ambizioso il piano di riforme di Renzi. Il Financial Times scrive che la medicina non curerà il malato. Il governo riunito, varati i provvedimenti dopo la sentenza antitrust sulle case farmaceutiche. In Ucraina, fra 48 ore, il referendum in Crimea per la secessione. Mosca annuncia, ci riserviamo il diritto di difesa dei nostri concittadini. L'Europa verso il varo delle sanzioni. Lunedì crolla la borsa in Mosca, un meno 5% oggi. Il presidente del Bayern, condannato per evasione fiscale, decide di rinunciare al processo d'appello. Andrò in carcere, dice, il significato che do al decoro e alla responsabilità personale. 3 anni dall'inizio del conflitto in Siria, 9 milioni di sfollati, situazione umanitaria in continuo degrado, riferisce la Croce Rossa. Tra poco ospite il presidente, appena tornato da una visita a Damasco. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Iniziamo dunque dal piano economico di Matteo Renzi e del governo, presentato, come sapete, nella giornata di mercoledì. A quello che avete sentito nei titoli, del quale parleremo tra un attimo, aggiungiamo i dati che arrivano da Fitch, l'agenzia di rating, sono arrivati proprio pochi istanti fa. La ripresa in Italia nel biennio 2014-2015, scrive l'agenzia, sarà modesta, con una crescita dello 0,6% quest'anno e dell'1% l'anno prossimo. Ma veniamo alle osservazioni da una parte di Berlino e dall'altra del Financial Times e non solo. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Il piano Renzi piace a Berlino, ma ci sono comunque perplessità sulla fattiva realizzabilità. Il portavoce di Angela Merkel, Stefan Schreiber, parla di progetto ambizioso di riforme di governo e cresce l'attesa per l'incontro di lunedì tra il premier italiano e la cancelliera tedesca, in cui Renzi lancerà la missione europea affinché l'Unione veda un'Italia autorevole. Più scettiche le critiche oltre manica per il Financial Times. La medicina Renzi non curerà l'Italia perché una riduzione delle tasse per coloro che guadagnano poco non aumenterà la competitività. Renzi vuole finanziare una parte delle sue elargizioni, scrive il giornale britannico, attraverso un misto di tagli alla spesa e tasse più alte sul reddito di capitali, ma questi soldi finanzieranno solo in parte le promesse fatte. E ieri a Porta Renzi ha chiarito che i parametri di Bruxelles saranno rispettati, anche se ribadisce di volere un'Europa di cittadini e non di vincoli. Dalla minoranza PD arriva poi l'ok al piano economico del Premier, ma invece ci sono ancora divergenze sulle riforme istituzionali, mentre Angelino Alfano si ascrive la diminuzione dell'IRAP. A te, Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito e questa mattina Consiglio dei Ministri. Subito prima del Consiglio dei Ministri in realtà si è riunito un comitato interministeriale sulla revisione della spesa. Carlo Cottarelli, commissario alla Spending Review, ha illustrato il suo piano. Il comitato ha cominciato un percorso analitico delle singole voci per costruire la revisione della spesa con risultati a breve e nell'arco del triennio. È là che si dovranno naturalmente reperire le risorse. Veniamo però appunto al Consiglio dei Ministri, che ha approvato delle cose importanti sul fronte della sanità. Ci colleghiamo con Andrea Viali per fare il punto. Andrea, eccoci. Sì, è così, Simone, eccoci. Allora, è stato approvato un decreto, lo dicevi, che tratta soprattutto di questioni sanitarie, in particolare reintroduce le tabelle per la classificazione delle sostanze stupefacenti, un intervento questo che si è reso necessario dopo la bocciatura da parte della Consulta della legge Fini-Giovanardi, e l'obiettivo è quello di fare chiarezza sulla materia in modo da consentire l'uso di determinate sostanze stupefacenti per motivi medici, per motivi terapeutici. Così ha spiegato il ministro della salute Lorenzin, che ha assicurato che non ci saranno invece novità, conseguenze dal punto di vista penale. La parte penale, ha detto Lorenzin, verrà affrontata entro 60 giorni. Nello stesso decreto è stato anche disciplinato l'uso dei cosiddetti medicinali off-label, cioè quei farmaci che sono utilizzati per patologie diverse da quelle autorizzate in origine. Questo intervento arriva invece dopo la multa dell'antitrust per la vicenda Roche Novartis. La ricordiamo, il decreto prevede misure per evitare che si ripetano accordi di cartello come appunto quello in questa, che c'è stato in questa vicenda, ma rende anche più semplice l'utilizzo di questi medicinali, sui quali serviranno comunque adeguate sperimentazioni che, la novità è che potranno essere avviate anche dall'Agenzia Italiana del Farmaco se l'utilizzo dei medicinali off-label comporterà un alleggerimento della spesa a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Simone. Grazie Andrea per questi aggiornamenti sulla situazione politica, come sempre il punto di Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Secondo un sondaggio dell'Espresso, un italiano su tre vorrebbe il ritorno alla lira. Il risentimento verso la moneta unica e verso l'Europa a guida tedesca è dunque altissimo e molto pericoloso in vista delle elezioni di maggio. Tuttavia questo spiega il fenomeno Renzi più di ogni altra considerazione. C'è in lui un forte tasso di populismo, ma per così dire costruttivo, non cupo e distruttivo come in Beppe Grillo. Le politiche di Renzi intercettano l'insofferenza verso l'Europa, ma propongono una soluzione morbida del problema. Nessuna uscita dall'euro, bensì la fine dell'austerità imposta da Berlino. Ed è questo che probabilmente il nostro Premier dirà ad Angela Merkel lunedì prossimo. O allenti un po' il rigore e ci fai respirare, oppure devi aspettarti che tutto questo risentimento dell'opinione pubblica si traduca in un successo drammatico delle forze anti-euro nel voto di maggio. È una partita spregiudicata che Renzi gioca con apparente avventatezza, ma il risultato, dati i tempi e le circostanze, non è scontato come in passato. Così dunque Stefano Folli, con lui chiudiamo la pagina politica. Torneremo a parlare di tutto questo, dei provvedimenti economici del governo, subito dopo, più avanti, perché avremo ospite Anna Soru, che è presidente dell'Associazione dei Consulenti del Terziario Avanzato, ossia le partite IVA, ed Enrico Zanetti, sottosegretario all'economia, proprio per parlare del fatto che apparentemente il governo gli autonomi li ha un po' dimenticati. Prima di andare all'estero, una notizia appena battuta dalle agenzie, che è una notizia di cronaca, perché è morto anche Simone Marazzi, 21 anni, il secondo dei due escursionisti che erano stati travolti ieri da una valanga nel Reggiano. Ma veniamo all'estero appunto e alla situazione in Ucraina, che ha anche una coda economica e anzi un inizio economico nella giornata di oggi, perché la borsa di Mosca sta andando giù in maniera molto forte, di circa un 5%, però facciamo il punto su tutto con la nostra Laura Bettini. Laura. Buongiorno, sì, la Crimea si prepara alla domenica del referendum sulla scissione dall'Ucraina e quindi poi all'annessione alla Russia in un clima di evidente tensione. Le agenzie di stampa riferiscono nelle ultime ore che a Sebastopoli c'è traffico molto intenso, ingorghi, rafforzata visibilmente la presenza di militari russi in uniforme, ci sono code ai bancomat per ritirare contante, l'acqua è stata staccata per tutta la notte per problemi tecnici, hanno detto le autorità locali. Insomma, questo è il clima. Mosca oggi fa un po' il poliziotto buono e chiede all'OSCE di inviare i suoi osservatori al voto di domenica, ma contemporaneamente fa anche il poliziotto cattivo, perché sostiene di essere pronta a difendere i suoi concittadini in Crimea. L'incontro, insomma, a Londra tra il segretario di Stato americano Kerry e il suo omologo russo Lavrov sembra un po' l'ultima chance per evitare questa secessione della Crimea, l'inizio di quella che l'ultimo presidente dell'URSS, premio Nobel per la pace Gorbaciov, ha definito oggi il possibile inizio di una nuova guerra fredda. Ieri il Senato degli Stati Uniti, per l'opposizione di un gruppo di senatori repubblicani, non è riuscito a votare il progetto di legge sugli aiuti all'Ucraina, che comprende anche sanzioni economiche nei confronti di dirigenti russi e ucraini legati all'ex presidente Yanukovych, e l'Unione Europea invece promette che le sue sanzioni potranno partire già da lunedì e che addirittura al vertice europeo della prossima settimana potrebbe essere siglata la prima parte dell'accordo di associazione all'Ucraina. Infine, Simone, una nota conclusiva che però forse fa capire anche come oggi possono essere condotte le guerre. Il sito del Cremlino è stato sotto attacco hacker, a quanto pare il più potente attacco mai subito da quando le autorità russe si sono convertite all'informazione sul web. È stata colpita oggi anche la banca centrale russa, nei giorni scorsi colpito il primo canale della televisione di Stato, quello del quotidiano governativo la Rassiskaya Gazeta. Insomma, il Cremlino sostiene che non ci siano attacchi legati alla crisi dell'Ucraina, ma insomma c'è decisamente da pensare anche a quella. Grazie alla nostra Laura Bettini per questi aggiornamenti. Le autorità della Malaysia, restiamo all'estero, hanno confermato oggi l'espansione verso l'Oceano Indiano delle ricerche del Boeing 777-200, scomparso misteriosamente una settimana fa, rifiutandosi tuttavia di commentare sulle conclusioni di investigatori americani citati ieri da Wall Street Journal, secondo i quali l'aereo avrebbe proseguito il volo per 4 ore dalla scomparsa dei radar. Adesso noi restiamo all'estero e chiedo alla regia di preparare il servizio sul presidente del Bayern che ha deciso di accettare la sentenza che lo ha condannato per evasione fiscale. Non ricorrerà in appello. Accetto le conseguenze di questo errore, così il presidente del Bayern Monaco, Uli Hoeneß, all'indomani della sentenza che lo ha condannato in primo grado a 3 anni e 6 mesi di carcere per evasione fiscale, ha fatto sapere che non ricorrerà in appello. Dopo averne parlato con la mia famiglia, ha spiegato: «Ho deciso di accettare il giudizio. L'evasione fiscale è stato l'errore della mia vita, mi assumo le conseguenze». L'ex leggenda del calcio tedesco, che dunque ora andrà in carcere, si è dimesso anche con effetto immediato da tutti i suoi incarichi, in primis quello di presidente del Bayern. Bayern che ha detto: «È stata l'opera della mia vita e lo rimarrà sempre». Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ritorniamo alla cronaca italiana. Innanzitutto parliamo dello sciopero, del personale ferroviario proclamato dal sindacato ORS e da alcuni sindacati autonomi minoritari. E secondo quello che scrivono le Ferrovie dello Stato in una nota, tutte le frecce, ossia freccia rossa, freccia bianca, eccetera, circolano regolarmente. Quasi regolare anche la circolazione degli altri treni nazionali. Cancellazioni e ritardi sono invece possibili nei servizi regionali. Qualche rallentamento si sta verificando in arrivo e in partenza ai nodi di Roma, Napoli e Venezia. Lo sciopero è iniziato alle 9 e si concluderà alle 17. Ora la vicenda della cosiddetta dama bianca, la donna che accompagnò Silvio Berlusconi a Toronto e che ieri è stata arrestata. Gli sviluppi. Una pedina con una potente organizzazione alle spalle. È la convinzione degli investigatori che stanno indagando sul caso di Federica Gagliardi, meglio conosciuta come la Dama Bianca, la donna arrestata ieri all'aeroporto di Fiumicino con 24 kg di droga nel bagaglio a mano. Una cosa è certa, questo caso è assai strano, si lasciano scappare gli investigatori. Non era mai capitato che qualcuno venisse fermato con una tale quantità di droga al seguito. E non convince la scusa accampata dalla donna subito dopo essere stata fermata. Mi hanno fregata, ha detto Federica Gagliardi e finanzieri, a loro la Dama Bianca ha lasciato intendere che qualcuno potesse aver nascosto la droga nel trolley e nello zaino che si portava dietro appena sbarcata dall'aereo proveniente da Caracas. I panetti di cocaina però erano ben visibili dentro il suo zaino, quasi impossibile che non li avesse visti. Probabilmente invece era convinta di godere di una sorta di impunità, che sarebbe passata liscia senza che nessuno la fermasse, ma non è andata così. Adesso si indaga per scoprire se quello di ieri fosse solo l'ultimo di una lunga serie di spostamenti tra l'Italia e il Sud America e quali siano i contatti di Federica Gagliardi nel nostro paese e dall'altra parte dell'oceano. Intanto la Dama Bianca ha passato la notte in cella nel carcere di Civitavecchia a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di essere interrogata nelle prossime ore. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo al nostro appuntamento con Passione Sud, il viaggio che Radio 24 ha deciso di intraprendere nelle zone d'Italia che ancor più del resto del paese stanno soffrendo la crisi. Un viaggio nelle principali città del Mezzogiorno, dove sono tante le difficoltà ma anche le potenzialità. Non ci sarà, lo sappiamo, una vera ripresa del paese senza una ripresa del Sud. Oggi la nostra ultima puntata da Napoli, poi torneremo la settimana prossima nel Mezzogiorno. Seduto in un bar deracchettizzato, Ranieri Bolognese sorride e dice: «Io sono la prova che la legalità paga. Se è vero che la presenza delle mafie rischia di allontanare dal sud investitori di fuori e pesa su quelli di dentro, come la giustizia lenta che costa 2 miliardi all'anno alle imprese, è anche vero che a Napoli ora chi denuncia il pizzo come questo commerciante trova aiuti eppure ritorni economici». Adesso sono uno dei negozi che vendono di più a Bagnoli, non mi aspettavo che avevano paura ad entrare dentro. Invece sono stato molto solidale, sono molto più agiato di prima. Prima problema, cioè che il suo supermarket fosse bruciato due volte, come la sua auto, dopo i ripetuti no agli estorsori poi arrestati. La crisi, insieme ad un capillare lavoro dell'associazione anti-racket, ha fatto però aumentare i no al pizzo. Sono abbassati di prezzo le estorsioni, ma loro ci tendono di più perché non ci sono soldi. Una volta a Napoli, quando si denunciava qualcuno, eri tu che stavi facendo la cattiveria. Come, che non puoi fare l'estorsione? Posso denunciarlo, che lui era un bravo giovane. Adesso invece sta cambiando proprio la mentalità. Abbiamo tentato di entrare con l'associazione anche, diciamo, al secondigliano, però metà dei negozi appartengono a loro e l'altra metà hanno interessi. La prova in carne ed ossa che la legalità paga pure economicamente dimostra a tutti che anche sotto al Vesuvio si può fare impresa senza pagare dazio al boss, ma per farla bene qui ancor più che altrove serve una seria riforma della giustizia, soprattutto civile, perché sia meno lenta e più efficace. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Ci sono novità importanti sulla vicenda Roche Novartis, ossia la vicenda dei farmaci sui quali c'è stata la sentenza dell'antitrust, cioè Roche Novartis naturalmente sono le società farmaceutiche, ve ne parlo subito dopo la viabilità. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Appena diffusa dalle agenzie, amministratori e dirigenti di Roche e Novartis sono indagati a Roma nell'inchiesta sul presunto cartello tra le due che ha indotto l'antitrust a comminare una multa di 180 milioni di euro. E tra l'altro il governo oggi è intervenuto proprio su questo tema, varando un decreto apposito e poi ha ripristinato le tabelle per quanto riguarda le sanzioni amministrative per la droga dopo la bocciatura della Fini-Giovanardi. Berlino definisce ambizioso il piano di riforme di Renzi, il Financial Times scrive che la medicina non curerà il malato. Ucraina, fra 48 ore il referendum in Crimea per la secessione, attaccati dagli hacker i siti del Cremlino e quelli istituzionali della stessa Crimea. L'Europa verso il varo delle sanzioni per lunedì. Il presidente del Bayern è condannato per evasione fiscale e decide di rinunciare al processo di appello. Andrò in carcere, dice, il significato che do al decoro e alla responsabilità personale. Saluto Anna Soru, presidente di ACTA, l'associazione consulenti del terziario avanzato. Dietro questa sigla e parole apparentemente oscure si nasconde in realtà una parte consistente, forse la più avanzata, di quel cosiddetto popolo delle partite IVA del quale tanto spesso parliamo. Soru, buongiorno. Buongiorno. Allora, sono moltissimi professionisti Soru e autonomi che apparentemente il governo nei suoi provvedimenti economici non ha voluto o forse potuto prendere in considerazione. Sì, abbiamo visto la prima fase del piano, che prevede delle agevolazioni fiscali, ma non per gli autonomi, esclusivamente per i dipendenti. E che effetto vi fa? Beh, non ci aspettavamo questo da un governo che diceva di parlare a tutti i lavori, di parlare al lavoro dei giovani e al lavoro delle donne. Ci aspettavamo che avesse anche un'attenzione nei nostri confronti. Io so già, Soru, io so già che arriverà dagli ascoltatori, perché insomma li conosco, poi ho scritto su questo delle cose su Twitter e so qual è la risposta di solito. No, ti dicono: ah, ma gli autonomi sono quelli che evadono. Vogliamo fare un po' di chiarezza da questo punto di vista? Sì, è quello che hanno anche sostenuto i sindacalisti. Allora, si parla di autonomi in maniera generalizzata. Noi siamo un particolare tipo di autonomi, noi siamo professionisti che lavorano per le imprese e per la pubblica amministrazione e quindi non abbiamo nessuna possibilità di evasione. Quanti siete? No, quanti siete, Soru? Quanti siete? Quanti sono nel vostro ambito, diciamo così? Guardi, non ci sono neanche dei numeri affidabili, purtroppo ci sono delle stime, diciamo che dovremmo essere intorno al 1,5 milioni in Italia, 1,7 milioni. 1,5 milioni di persone. Allora io ho voluto far collegare subito, in maniera che sentisse le sue parole, Enrico Zanetti, neo sottosegretario dell'economia, deputato di Scelta Civica, già altre volte ospite di Effetto Giorno, bentornato dunque. Buongiorno, grazie per l'invito. Che cosa dice, che cosa risponde a questo mondo degli autonomi, che non è un mondo di evasori, come ci ha chiarito la Soru, e che rimane sostanzialmente fuori da tutto questo? Ma guardi, per ora sono state lanciate delle linee che a mio avviso sono importanti, ma rispetto alle quali, tenendo comunque la barra dritta, sarà sicuramente possibile lavorare per degli aggiustamenti. Io le posso dire con estrema, come dire, sintesi, quella che è l'idea non mia personale ma di Scelta Civica. Secondo noi, più che, fermo restando che non si può escludere appunto questo mondo, più che immaginare gli ennesimi regimi più o meno differenziali, come mi è capitato di leggere oggi come proposta ad esempio di Alfano, noi siamo per una soluzione estremamente semplice ed equa, che ha come finalità quella di trattare in modo identico ciò che nella sostanza è identico pur nella apparente diversità di forma giuridica. Come intendo? Fino i lavoratori autonomi fino a 25.000 euro, che quella è la soglia che in questo momento è stata individuata, che hanno un fatturato al 100% riconducibile a un unico committente, dovranno poter fruire della detrazione di lavoro dipendente anziché della detrazione di lavoro autonomo. È una norma molto semplice, molto lineare, che non crea 800 regimi differenziati e che riporta su un binario di equità e di pari trattamento le due posizioni. Questo forse vorrà dire che anziché 80 euro in busta paga, visto che si allarga la platea, ne metteremo 70, ma secondo me sarà sicuramente in ogni caso una scelta di questo tipo. E quindi Scelta Civica si farà promotrice di tutto questo? Scelta Civica si fa promotore di questo tipo di intervento. Ovviamente siamo una delle componenti di questa maggioranza, ma sia all'interno dell'esecutivo che in Parlamento questo è ciò che noi intendiamo venga fatto. Una cosa semplice, una cosa chiara, una cosa, mi permetto di dire, anche logica. Ovviamente ci deve essere situazioni di autonomi equiparabili nella sostanza a lavoratori parasubordinati. Noi conosciamo la realtà delle cose, non siamo nei palazzi da 200 anni sganciati dalla realtà. Sappiamo benissimo che ci sono tante partite IVA che nella sostanza sono monocommittenti. Ebbene, nella misura in cui una partita IVA è monocommittente, ha un reddito fino a 25.000 euro, è giusto che, rimanendo giuridicamente qualificato così come è qualificato, senza andare a creare confusioni atroci, ma dal punto di vista economico possa fruire esattamente della detrazione per lavoro dipendente, nella misura in cui sarà aumentata, di cui fruisce un dipendente anche formalmente inquadrato come tale. Ha già avuto modo di parlarne col ministro Zanetti? No, adesso lo porteremo, chiaramente adesso cominceranno anche all'interno della, ripeto, sia della maggioranza che dell'esecutivo questo tipo di confronti. Ho avuto modo di parlarne all'interno innanzitutto di Scelta Civica, del partito nella cui file sono stato eletto e in nome del quale partecipo a questo esecutivo. Sento una cosa, ci sono un altro paio di domande che vorrei farle prima di salutarle, sono un po' più generali. La prima riguarda la spesa per questo sgravio fiscale, diciamo, fino alla fine dell'anno. Abbiamo parlato fino adesso di 10 miliardi, in realtà non sono 10 miliardi, perché se questo sgravio in busta paga parte a maggio, i soldi sono meno. Sì, saranno, infatti sono un po' meno. Sul 2014 la situazione è quella più complessa di tutte, perché anche se, cioè paradossalmente, i 18 miliardi di cui si parla sul 2015 e poi a 34 sul 2016 sono più facili da raggiungere dei 7 miliardi sul 2014. Perché? Perché il processo di spending review inevitabilmente si fa, come dire, lo si mette in cantiere un anno perché funzioni l'anno successivo, mentre quest'anno purtroppo noi partiamo situazione già in essere. È per questo che purtroppo il 2013 è stato un anno da questo punto di vista molto negativo, perché il lavoro di Cottarelli, anziché impostarlo a novembre, andava impostato il giorno dopo che si era insediato l'esecutivo Letta. Solo che sapete com'è andata: abbiamo perso 6 mesi a fare il sentinelle antitasse e no altri, a parlare di IMU sì, IMU no, IMU qua, IMU giù. Noi fin dall'inizio avevamo detto che quello non era il discorso centrale, e non perché l'amiamo l'IMU, ma anzi la odiavamo più di tutti, visto che ci veniva anche sempre scaricata addosso, nonostante la sua introduzione fosse stata colpa proprio di quelli che poi volevano ergersi a risolutori. Però il 2003 ce l'abbiamo un po' buttato. Sto 2014 è tosto, perché siamo già in corso d'anno, ma quella è la strada, la spesa, il taglio della spesa. E dopo, infatti, io dico la verità, io vorrei che ci concentrassimo tutti di più su quel lato, perché poi, fermo restando che qualunque distribuzione delle risorse che troveremo non renderà mai tutti felici, comunque sarà sempre un passo avanti, ma un passo avanti che necessita che si facciano davvero questi tagli. Parliamo prima di tutto di quelli, prima ancora di come poi usiamo risorse. Un'ultima cosa che le voglio chiedere invece riguarda la giornata di lunedì, che a quanto pare è un appuntamento decisivo. Oggi Berlino, Stephen Seibert, portavoce della Merkel, dice il piano Renzi è ambizioso, ne parleranno lunedì. Pensa che sia il momento giusto, secondo lei, intendo, è il momento nel quale forse i tedeschi possono cedere un pochetto, o insomma ritiene che la rigidità tedesca resterà e che, come ci scrive qualche ascoltatore, Renzi si troverà costretto a rispondere alla Merkel: ce ne faremo una ragione? Guardi, secondo me un po' cederà, poi come sempre in politica si arriva a un compromesso, ma da questo punto di vista fa bene Renzi, e noi come Scelta Civica da questo punto di vista siamo in linea con lui, fa bene Renzi a buttare la palla avanti. Fa bene a dire anche cose forti come: se non succederanno queste cose sono un buffone, perché io sono convinto, è una mia riflessione personale, sia chiaro, ma sono convinto che quando lui dice queste cose, e io trovo che faccia bene a dirle, più che parlare a noi italiani, ai cittadini, lui parla proprio agli establishment nazionali e internazionali, e gli spiega che adesso c'è una generazione nuova di politici che si gioca tutto per il suo paese, e che se non troverà degli interlocutori disposti a consentirgli di fare una politica anche di equità e non solo di rigore, alla fine anche noi ci faremo da parte, e a quel punto se la vedranno coi vari Grillo, Berlusconi, allora sì che sono problemi per tutti. Grazie ad Enrico Zanetti, sottosegretario all'economia, grazie anche ad Anna Soru, presidente di ACTA. Brevemente. Posso replicare? Sì, è soddisfatta della risposta di Zanetti? No, assolutamente no. Ah, ok. Assolutamente no, per questo vorrei replicare. Prego, prego. Penso che o ci si riconduce verso il lavoro dipendente, altrimenti non si ha diritto a nulla. Cioè, che si parli di agevolazioni fiscali o di ammortizzatori sociali vanno solo per chi è finto dipendente. Che senso ha tutto questo? Questo è proprio non riconoscere l'esistenza del nuovo lavoro autonomo. Allora, Zanetti, la devo far controreplicare brevemente. Però attenzione, noi adesso partiamo con un piano che mette al centro gli interventi delle situazioni di soggetti in maggiore difficoltà. Quindi, ad esempio, sui dipendenti stiamo fermi a chi guadagna meno. Sugli autonomi partiamo da quei soggetti che hanno posizioni di maggiore debolezza, proprio perché in situazioni di monocommittenza. Poi, nel tempo, è chiaro che amplieremo gli interventi, ma trovo del tutto logico, così come trovo illogico, e Scelta Civica questo non vuole che accada, trascurare il mondo degli autonomi, trovo logico che nel mondo degli autonomi si parta innanzitutto da quelle situazioni di monocommittenza che sono caratteristiche dei giovani, degli autonomi in situazione di forte debolezza rispetto al loro committente, e dopo si passa agli altri. Mi pare invece francamente del tutto logico e coerente. Devo veramente chiudere, grazie Zanetti, grazie Soru, della quale rimangono le perplessità e continueremo a sentirla, la ritroveremo in altre occasioni. Pausa e poi la borsa. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Amministratore e dirigenti di Roche e Novartis indagati a Roma nell'inchiesta sul presunto cartello tra le due. Berlino definisce ambizioso il piano di riforme di Renzi. Il Financial Times scrive che la medicina non curerà il malato. Ucraina, fra 48 ore il referendum in Crimea per la secessione. Giù la borsa di Mosca, ed è proprio di mercati che parliamo adesso. Borse in diretta. Isabella Tasso, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. E la situazione non pesa solamente sulla borsa di Mosca, perché FTSE MIB giù del 2,27%, FTSE OCHERE altrettanto, giù anche Parigi di 1,5%, Francoforte di oltre 1%, e Londra dello 0,65%. Gioca questo e gioca anche qualche dato preoccupante dalla Cina, mi sembra di capire. Sì, la delicata situazione in Ucraina, anche il rallentamento dell'economia cinese, sono usciti diversi dati che puntano in questa direzione negli ultimi giorni, sono entrambi elementi che incoraggiano un atteggiamento cauto sulle borse, che così stanno perdendo punti. Il referendum sulla secessione della Crimea in calendario domenica alimenta ancora di più il nervosismo, così gli investitori sono tornati a comprare titoli considerati sicuri come titoli di Stato tedeschi e americani a discapito delle azioni. C'è un solo titolo positivo, Monte dei Paschi, 1,6% di guadagno. Sì, titolo Monte dei Paschi è in rialzo ed è spinta da indiscrezioni di stampa su un interesse del fondo statunitense J.C. Flowers per rilevare il 20% della banca dalla fondazione azionista. Va abbastanza bene anche il BPM, più 1%, continua a beneficiare dell'effetto dei conti 2013 che sono stati apprezzati dagli analisti. E grazie anche per oggi a Isabella Tasso, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E adesso, tra un attimo parleremo di Siria, ma solo una risposta a qualche sms, a qualche sollecitazione che mi arriva via Twitter a proposito del tema delle partite IVA delle quali abbiamo parlato poco fa e degli autonomi. A chi dice, insomma, è vero che la monocommittenza è vietata per legge ormai, però è vero anche che se il limite è all'80% e se uno fattura l'80% alla stessa azienda è sostanzialmente un monocommittente. Poi possiamo raccontarcela quanto vogliamo. Francesco Rocca, vicepresidente della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e presidente della Croce Rossa Italiana. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, lei è stato 3 giorni a Damasco, in Siria. Sì, sì. Che solo Damasco è riuscito anche a toccare altre zone del paese? No, l'area rurale di Damasco, che era l'area comunque interessata da scontri continui nelle settimane precedenti. Che situazione ha trovato? Ma una situazione assolutamente surreale, cioè una Damasco città al centro che cerca di vivere una sua normalità, ma basta uscire dal centro città per trovare i segni della guerra e centinaia di migliaia di sfollati scappati dalle situazioni di conflitto che vivono in condizioni miserabili, senza acqua corrente, senza elettricità H24 e molti di loro privi di qualsiasi sostegno. Come riuscite a intervenire, Rocca? Noi in questo momento come movimento insieme alle agenzie delle Nazioni Unite riusciamo a raggiungere mensilmente circa 600.000 famiglie, stiamo parlando di circa 3 milioni di persone, però il numero degli sfollati è pari a più del doppio, sono circa 6 milioni e mezzo gli sfollati interni in questo momento che si trovano nelle condizioni che vi ho appena descritto. È una situazione drammatica che non viene percepita dall'opinione pubblica, ma è probabilmente una delle tragedie più grandi degli ultimi 20 anni, è una cosa indescrivibile sotto il profilo proprio umano, quello che gli occhi vedono visitando quelle terre. Ci vuole raccontare un episodio in particolare di quello che ha vissuto in questi 3 giorni, Rocca? Ma guardi, l'incontro più toccante sicuramente insieme a quello con alcune famiglie di sfollati che hanno dovuto lasciare tutto e vivevano in quelle condizioni che ho appena descritto è stato con i rappresentanti di Yarmouk, che è questa enclave palestinese che vive a pochi chilometri da Damasco, che è sotto assedio ormai da mesi e ci sono stati addirittura 120 morti per fame perché non c'è accesso umanitario, ci sono combattimenti continui all'interno dell'area. L'altro ieri è stato ucciso un farmacista addirittura del presidio ospedaliero, e sapere che 5.000 bambini sono intrappolati tra i rumori della guerra, senza acqua corrente, senza luce e mangiando l'erba, che loro fanno bolliti con l'erba perché non c'è un chilo di riso, è arrivato a costare $100. Questo è il segnale di questa tragedia. Di questa crisi. La ringrazio, grazie a Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana e anche vicepresidente della Federazione Internazionale Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. La ringrazio, buon lavoro, è il momento dell'inchiesta di Daniele Biacchessi. Milano, è il 1° dicembre 1978. Oscar Tagliaferri e Maurizio Baldasserroni non sono ancora inseriti nei vertici della struttura militare di prima linea, ma gravitano nei gruppi contigui, i collettivi di quartiere. Di sera entrano in un bar di Via Adige in zona di Porta Romana. Sono visibilmente ubriachi. Tagliaferri non ha ancora smaltito il dolore di una forte delusione sentimentale. Il whisky picchia alle tempie e annebbia il cervello. Nel bar scatenano una rissa improvvisa con alcuni avventori, ma dal locale vengono allontanati a calci e pugni. Non ci stanno, devono vendicarsi per quell'affronto. Gonfi di rabbia e di whisky, tornano a casa, impugnano un fucile Smith & Wesson calibro 12 e un revolver 357 Magnum, si infilano nell'auto e tornano davanti al bar. L'ora è tarda e le saracinesche del negozio sono ormai abbassate, ma lì davanti sostano le 3 persone con cui si erano scontrati poco prima. Una pioggia di piombo investe Carlo Lombardini, Pietro Magri e Domenico Bornazzi. vaccini. Tagliaferri e Baldassarroni diranno di averlo fatto perché nessuno può mettere in discussione l'autorità dei comunisti in un quartiere proletario. La figlia di Domenico Bornazzini, Deborah, cerca ancora una verità e una giustizia. 36 anni dopo, si racconta a Radio 24. È un triplice omicidio che è avvenuto a Milano dentro un bar. Queste due persone sono entrate nel bar e hanno cominciato a parlare di azioni di natura politica in modo provocatorio, insomma in modo che le persone presenti in questo bar le sentissero. Ne è nata una discussione che è terminata poi con una vera e propria esecuzione. Lei era molto piccola allora, no? Perché a un certo punto ha incrociato questa storia e poi dove l'ha portata? Questa storia l'ho incrociata perché nessuno mi diceva la verità e non riuscivo a capire, non riuscivo a sapere che cosa fosse esattamente successo. Inizialmente noi, io e mio fratello, eravamo bambini, siamo stati protetti con delle menzogne, dette a fin di bene, ci hanno detto che nostro padre era stato ucciso, era rimasto ucciso in un incidente stradale. Quando poi ho scoperto la verità avevo 15 anni, ho cominciato a cercare notizie sui giornali, finché poi più o meno nel 2005 sono entrata in contatto proprio con uno dei suoi libri, Via di fuga. Ho scoperto che lei parlava di queste persone, l'ho contattata e devo dire che tutto proprio ha avuto inizio da quel momento lì, quando mi ha risposto: quando una figlia è in cerca di verità e di giustizia io non posso che aiutarla. Mi ha mandato tutte le notizie ANSA che aveva a disposizione e da lì è cominciata questa ricerca, che è sfociata in una elaborazione, una rielaborazione di tutto quello che è accaduto, non ultimo del dolore che mi ha accompagnato e che mi accompagnerà comunque per tutto il resto della mia vita, anche se questo dolore fortunatamente è stato trasformato, insomma è stato reso meno pesante da questo percorso. C'è una speranza perché si possa capire dove è finito uno dei killer della strage di Via Adige del 1 dicembre del 78? È svanito nel nulla. È svanito nel nulla, le ultime notizie lo vedono a Lima, in Perù, coinvolto in un traffico internazionale di stupefacenti. Intanto c'è la memoria, perché Milano si ricorda. Milano si ricorda, il 26 marzo verrà intitolato il giardino di piazza Bruno Bozzi, che è poco distante dal luogo in cui è avvenuto il triplice omicidio in via Adige, e l'Associazione Italiana Vittime del Terrorismo, Sezione Lombardia, ha voluto questo percorso che si compirà, proprio si concluderà con l'intitolazione del 26 marzo, hanno voluto ricordare tutti i caduti, perché di caduti si tratta, in Lombardia e soprattutto a Milano negli anni di piombo sono veramente tanti, e questa cerimonia per noi è un grande onore, un grande riconoscimento, perché ci consente di uscire totalmente dalla sensazione di vergogna, di umiliazione che abbiamo vissuto soprattutto i primi anni, quando si parlava di regolamento di conti tra bande malavitose, perché gli inquirenti non riuscirono mai a collegare l'omicidio, insomma fino all'82, fino a quando i due pentiti non parlarono, non riuscirono a collegare l'omicidio agli ambienti terroristici. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Il momento di Mario Platero e di America 24. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. And I believe that if we start real talks with Russia, they could be real partners. Arsenio Yatsenyuk, il primo ministro ucraino, lo avete sentito, ha parlato alle Nazioni Unite, un appello perché la comunità internazionale lo aiuti a preservare la sua integrità territoriale. Abbiamo ascoltato un messaggio simile mercoledì, quando Yatsenyuk si è incontrato con Barack Obama. Domenica ci sarà il referendum in Crimea e tutti danno per scontato che a quel punto la Russia annetterà la Crimea. Barack Obama ha alzato la voce, ha detto: guai a voi se lo fate, ci saranno sanzioni. Lunedì c'è già una riunione in Europa, il G7 si è espresso con toni molto preoccupati, minacciando di nuovo delle sanzioni. Obama ha detto: se si andrà avanti lungo questa strada ci sarà un costo da pagare per la Russia. E in questa situazione i mercati cominciano a soffrire, perché ieri abbiamo visto che l'indice Dow Jones ha perso l'1,41%, 231 punti, e a quota 16.108, quindi sembrava avviato verso quota 17.000, invece adesso andrà a testare quota 16.000 al ribasso. Insomma, c'è preoccupazione sul mercato, una preoccupazione secondo me naturale, ma forse eccessiva. Gli investitori approfittano magari di un momento in cui si può pensare a una piccola